Genova, un cielo azzurro e strade colorate, la bella città sul mare, trafitta dalle barricate, ci cantava la speranza di mille parole nuove, uccise dalla violenza, crocefisse sotto il sole, uccise in piazza Alimonda, colpite sotto il sole. Ricordo giorni crudeli, massacrare Ilaria Alpi, il passo della guerra, il traffico sporco di armi. Ricordo i bei vent'anni di Carlo Giuliani, i sogni di un ragazzo, il suo sorriso nel domani, schiacciato sull'asfalto con i suoi giorni nelle mani. Passava una lepre pazza, la strage di Bologna, Milano e la sua piazza, e cadevano rose e lacrime, Borsellino con Falcone, tutti gli angeli di Ustica, ali spezzate in fondo al mare, gli angeli di Ustica, scomparsi giù in fondo al mare. Ho visto il maggio offeso di Piazza della Loggia, i morti di Reggio Emilia e quella vecchia contessa, ho visto il treno Italicus e la nuova borghesia, la notte dei lunghi coltelli, colpire la democrazia, la notte degli sporchi coltelli, il sangue della scuola Diaz. Partigiano, cantare Dio è morto, il vecchio col bambino, ho visto Bella Ciao dare un fiore a Che Guevara, gli occhi di Fabrizio piangere nella sera, gli occhi di un ragazzo chiudersi quella sera, urlava sotto il cielo, Genova insanguinata, la dolce città sul mare, tutta chiusa da una barricata, urlava l'allegria di mille parole nuove, uccise dalla violenza.